reportage. Kiev, Bruxelles. Migranti sul fronte orientale. Di Gigi Donelli. Cento anni dopo le grandi battaglie che hanno cambiato il mondo, le tracce della storia si dipanano lungo quella che oggi è la frontiera orientale dell'Unione Europea. Alla fortezza di Chemisch, le ultime sere d'estate sono la cornice ideale delle ricostruzioni in costume diventate ormai molto popolari tra le famiglie polacche. Raccontano la disperata difesa opposta dall'esercito austro-ungarico all'avanzata russa nel secondo terribile anno della Grande Guerra. In questa, che era terra asburgica di Galizia, vennero a morire nel solo 1915 un milione di soldati e molti di loro, con la divisa di Vienna, erano stati mandati dal Trentino e da Trieste. Chemisch è l'ultimo lembo di pianura polacca e dell'Unione Europea. 13 chilometri più a est, dove 25 anni fa era Unione Sovietica, oggi c'è la frontiera ucraina. Ancora avanti, 115 chilometri a est della grande fortezza sconfitta, c'è poi Leopoli, che allora si chiamava Lemberg e oggi si chiama invece Lviv, ed era la capitale della Galizia austriaca, prima delle province di Vienna per dimensioni e abitanti. Ma la storia qui non è accademia e lo si vede proprio a Leopoli, dove il nuovo consolato polacco occupa un intero blocco di un vecchio quartiere non lontano dal centro. La coda si crea prima dell'alba perché qui vengono rilasciati ogni giorno oltre 1000 permessi per l'Europa. Turismo, lavoro, studio, residenza, piccolo via vai di frontiera. Chi può dimostrare di avere antenati polacchi è favorito, ma in generale tutti o quasi gli ucraini hanno buone chance perché la Polonia ha scelto da tempo questa linea. A Varsavia spiegano che il consolato di Leopoli è quello che riceve il maggior numero di richieste di tutte le rappresentanze polacche nel mondo. Nel 2014 ha rilasciato 345.278 visti a cittadini ucraini, di cui 227.000 per l'area Schengen e il resto per la sola Polonia. Quest'anno, fino al 31 agosto, sono già 250.000. Rafael Rogala, capo del Dipartimento Migrazione a Varsavia, spiega qual è la logica che oggi governa la concessione dei visti da parte della Polonia. Lungo il nostro confine orientale, come lei ha avuto modo di verificare personalmente durante la sua visita, la situazione è complessivamente tranquilla. Quello che ci preoccupa è soprattutto la situazione degli IDP, gli Internal Displaced People, gli sfollati dalle regioni dell'Oriente ucraino, il Donbass, dove il conflitto ha già prodotto oltre 1,5 milioni di sfollati. La questione non è dunque legata ai richiedenti asilo, poiché sono in numero complessivamente piccoli. Se prendiamo quest'anno, il 2015, le posso dire che abbiamo avuto in tutto 1.700 richieste di asilo. Ma nello stesso tempo e nello stesso periodo abbiamo avuto 65.000 richieste di regolarizzazione da parte di chi voleva un permesso di lavoro di lunga durata per stare in Polonia legalmente. 65.000 richieste di permessi di vario tipo, a termine o permanenti che siano. Il 75% di tutte queste richieste è stato depositato da cittadini ucraini. Lasci che le spieghi come sono cambiate le cose in tempi molto recenti. Abbiamo cambiato la nostra legge sull'immigrazione solamente nel 2014, lo scorso anno. La nuova legge è entrata in vigore nel maggio del 2014. Con questa nuova normativa abbiamo cercato di minimizzare le condizioni richieste per l'accesso in Polonia. Abbiamo cercato di semplificare le procedure e consentire un canale di migrazione legale in Polonia che organizzasse il fenomeno, riducesse gli ingressi illegali e favorisse da parte dei richiedenti un'attitudine orientata verso l'accettazione del processo amministrativo di concessione dei visti di lavoro a discapito delle richieste di asilo. In pratica abbiamo fatto in modo che le persone che vogliono venire in Polonia sappiano che possono avere il permesso nei tempi e nei modi che il meccanismo amministrativo richiede e che dunque questa strada si rivela per loro più favorevole di quanto non sia quella illegale o anche quella della procedura di asilo. Solidarity and unity are our guiding principles. in combination with measures to contain the refugee flows and measures to get back the control of our borders from those profiting from desperation. Come ha scritto il ministro degli esteri polacco Gregor Schetyna, dall'inizio dell'attività dello Stato islamico e del conflitto in Ucraina si è cominciato a parlare di un arco di instabilità nell'area di frontiera sud-est europea. Un arco che non ha impedito, dice, a Varsavia di accogliere i profughi dalla Cecenia quando la guerra ha devastato quel paese e allo stesso modo di essere solidale con alcune centinaia di migliaia di immigrati dall'Ucraina, i quali cercano non solo la fuga dalla guerra, ma anche la speranza di una vita migliore. Compra, vende, vive praticamente su. C'è differenza di prezzi. C'è differenza di prezzi e la gente semplice quando ha visto l'entrata, diciamo, in un altro paese, anche Slovacchia, Ungheria, può andare a fare le spese. Diciamo, è più vantaggioso invece di comprare qua qualche cosetta, anche cose semplici da mangiare, elementari anche. Gli stipendi sono bassi. Bassissimi. Uno stipendio medio di un impiegato pubblico possiamo definirlo intorno ai 2.500 grivne? Diciamo che per comodità mentale 2.000 grivne corrispondono a circa 90 euro? Sì. E nonostante questo conviene andare a fare acquisti in un luogo dove c'è l'euro, come la Slovacchia? Sì. Adesso quando entri in qualsiasi negozio i prezzi sono più o meno come in Italia, come in Europa. Come fa a vivere? La gente lavora tanto. Diciamo, se uno è impiegato e ha diritto di avere un secondo o terzo lavoro, la gente lo fa e quindi sfruttano la situazione della frontiera, fanno le spese dove è più vantaggioso di fare, tutto qua. Passare il territorio ucraino non è complicato, significa però fare i conti al ritorno con l'essere in uno spazio extracomunitario di confine. Nel posto di Krakowiec c'è una lunga coda per permettere i controlli molto attenti da parte delle autorità doganali polacche. Alle 5 del mattino sono in coda e l'ingresso in Polonia, dove la statale diventa rete autostradale europea, non avviene prima delle 11. Un supplizio per chi ha perso l'abitudine, ma non è il caso degli ucraini che vanno su e giù lungo questa frontiera perché devono, perché un insegnante di scuola guadagna 2.000 grivne al mese e in patria i prezzi non sono poi così bassi. Più a sud, nell'estremo angolo occidentale dell'Ucraina, passo la frontiera tra Slovacchia e Ucraina. In tutto, la frontiera tra i due paesi è lunga un centinaio di chilometri. Qui comunque è una zona fitta di boschi. Dopo la caduta dell'URSS, questa è stata considerata una frontiera facile da passare, poche guardie, disponibili soprattutto dal lato ucraino a chiudere un occhio in cambio di moneta pregiata. Ora però le cose sono cambiate. Dalla parte slovacca 800 nuovi agenti sono operativi sul confine. La pressione che viene fatta sugli agenti ucraini in vista delle trattative con l'UE complica le cose. Questo naturalmente non significa che la frontiera sia sigillata. Il 10 agosto scorso un'intera famiglia afghana composta da 11 persone è stata arrestata nel bosco di confine. Sono stati i sistemi di controllo termico installati dagli ungheresi a far scattare l'allarme e a far intervenire la polizia ucraina. Il 5 luglio, nel tratto di confine rivolto invece all'Ungheria, è stato fermato un gruppo di 22 persone, anche in questo caso afghani. Hanno raccontato di aver pagato $1.500 a testa ai passatori di confine e di essere arrivati nel paese semplicemente attraverso l'aeroporto di Kiev. Tutto questo prima di finire nel campo che le autorità ucraine gestiscono nell'area di Mukachevo. Nel quadro della grande crisi della migrazione europea, la frontiera orientale dell'Unione Europea con l'Ucraina ha una caratteristica precisa. Nonostante sia lunga 1.000 chilometri, è quella a minor impatto di traffico umano, circa il 2% del totale registrato nell'ultimo biennio, anche grazie agli accordi bilaterali che sono stati sottoscritti. Contraband penetrate the border with cigarettes, with anything. On the Romanian border is business number one, cigarettes. Nel settore ucraino i cittadini extracomunitari beneficiano di una serie di accordi che consentono l'accesso temporaneo fino a 6 mesi l'anno. e per questo gli arresti di clandestini che arrivano soprattutto dall'Asia non supera mai il tetto di 100 persone al mese. Ben più importante è il traffico delle merci, sigarette in testa, che, come ci spiega un graduato dei servizi di confine a patto di restare anonimo, è la grande torta che viene divisa tra periferia e centro. Kiev, dunque, in termini di traffici illegali miliardari, che in particolare sul fronte delle sigarette seguono una rotta che dall'Ucraina, paese produttore, arriva in Italia e in Francia attraverso la Romania. Nei giorni in cui il vertice UE afferma per la prima volta in un documento formale che la solidarietà deve andare di pari passo al contrasto del traffico illecito delle persone, sulla frontiera orientale dell'Unione si assiste con preoccupazione al viaggio dei profughi siriani che investe l'Europa attraverso la via dei Balcani e accelera il cambiamento di metodo che i paesi del sud chiedono da tempo. Dopo il vertice di Bruxelles e molta trattativa, i paesi del gruppo di Visegrad si dividono. La Polonia, che con Donald Tusk sta ormai ai vertici dell'UE, è tra gli architetti della svolta, pur da una posizione di mediazione. Una svolta che apre di fatto all'idea che i problemi connessi alle grandi migrazioni vadano condivisi e di fatto manda in soffitta quello secondo il quale ciascuno decide autonomamente in casa propria. Dove l'Europa si scopre politica, gli stati si preoccupano. Ecco dunque che Praga e Budapest accettano solo dopo la fine dei lavori di non opporsi alla decisione di Bruxelles, mentre la Slovacchia, 5 milioni di abitanti, si oppone e basta. Non bisogna però sottovalutare la posizione della piccola, orgogliosa Slovacchia. Rappresenta, è vero, solo l'1% della popolazione dell'UE, ma mette in luce una divisione che va oltre i numeri e che attiene invece al piano culturale, alle priorità. In questo momento storico, la priorità a est è orientata sulla questione russo-ucraina piuttosto che su quella nord-sud. Una crisi drammatica dalle conseguenze non del tutto prevedibili. Ungheria e Slovacchia in particolare hanno assunto una posizione molto dialogante con la Russia, che si allontana dal fronte della fermezza che si va creando invece tra Varsavia e Kiev. Gli interessi, insomma, sono diversi, diversi anche rispetto a quelli sostenuti a Bruxelles. E in questo quadro il grande tema della migrazione diventa una parte soltanto di una grande sfida che l'Unione Europea si gioca anche nelle grandi pianure dell'Est Europa. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.